Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Sono un pochino disilluso ultimamente, penso sempre che l'Italia sia un bellissimo paese da fare le vacanze. La Germania dà delle migliori opportunità a chi ha idee, a chi è un po' imprenditore di se stesso, per chi vuole lavorare. La cosa che più mi spaventa dell'Italia è prima il trattamento economico e poi la non serietà dei contratti. A livello di responsabilità, di quello che farei se tornassi in Italia, ritengo che farei un passo indietro. Diciamo che il principio per cui sono venuto qua è stata la disperazione. Nel senso che in Italia dopo 8 mesi comunque rinchiuso in casa a cercare di lavoro, facendo questi colloqui senza senso. Ho detto, ho bisogno di una svolta. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova immigrazione. Fa davvero impressione ascoltare le voci di Francesco e Giuseppe, immigrati in Germania, e di Mariolina e Fabrizio, espatriati in Olanda, in questo bel reportage di Martin Fegar per il quotidiano La Stampa. Voci che fotografano con crudezza e grande oggettività i principali motivi che spingono i giovani a lasciare l'Italia. Li ritroveremo tra poco nel sondaggio sulla nuova immigrazione professionale del Centro Altra Italia, che Giovani Talenti è in grado di rivelarvi in esclusiva. La frase della settimana è della nostra ascoltatrice Laura, a cui dedichiamo idealmente la puntata. Laura ci ha scritto: ho 17 anni, appena terminati gli studi vorrei andarmene dall'Italia. Siamo arrivati nella situazione più deplorevole che possa esistere, tutto è al degrado, io non vedo e non trovo il mio futuro. Poi aggiunge: purtroppo non posso fare viaggi, trasferirmi all'estero, né un corso di lingue, non ne ho la possibilità, non ho fondi. Il mio desiderio più grande è svegliarmi da questo incubo straziante che divora l'anima ogni minuto e ogni secondo e ritrovarmi con un'Italia migliore e più aperta ai giovani. Auguri a Laura e al paese. In Italia c'è poco, si dà pochissima fiducia ai giovani. Il mio ex capo a Westgate ha aperto il suo studio che aveva 27 anni. Silvia Lupini, 37 anni, un architetto, lavora a Rotterdam in Olanda. Della sua storia parleremo tra pochi minuti, ora spazio a notiziari. Notiziario monotematico per Giovani Talenti oggi, interamente dedicato alla ricerca del Centro Altra Italia sulle nuove mobilità. Nuove mobilità o nuove migrazioni italiane? Questo il titolo del questionario. La ricerca è stata condotta in partnership con Radio 24 e con Giovani Talenti. Maddalena Tirabassi, direttrice del Centro Altra Italia, ci fornisce in esclusiva i primi dati. Età, grado di istruzione, paesi di emigrazione e motivi di espatrio in primo piano. Sentiamo. Dal campione che abbiamo finora, la maggioranza degli intervistati è abbastanza giovane, ha un'età compresa tra i 25 e i 37 anni, con una provenienza per il 67% dal nord Italia, per un 16% dal centro e un 17% dal sud. La maggioranza di loro risiede all'estero da meno di 4 anni e quindi rientrano proprio nella categoria della nuova immigrazione dei professionisti. Il 43% è singolo e solo il 24% ha dei figli. Soprattutto sono istruiti, hanno un alto grado di istruzione. Quello che colpisce è che l'istruzione sia veramente a un livello alto. La percentuale di laureati del campione rispetto a quella della media nazionale è doppia, è un 56%. Oltre il 13% ha un dottorato e l'8% un post-dottorato. Gli altri hanno un diploma, possiamo dire? Sì, i restanti hanno quasi tutti un diploma. Paesi di emigrazione, perché qui abbiamo Europa e Stati Uniti che ancora la fanno da padrone. Chi la fa davvero da padrone è l'Europa, con quasi il 70%. In testa si colloca la Germania, seguita da Gran Bretagna, Francia, poi Stati Uniti e Spagna. Ma anche la Cina, per esempio, figura all'ottavo posto, quindi è abbastanza alta in graduatoria. La cosa che emerge con maggiore forza dalla vostra ricerca sono i motivi dietro a questa emigrazione. Andiamo a vederli. Al primo posto possiamo collocare la ricerca di un lavoro, questo è fondamentale. Si tratta però di un lavoro qualificato, come dimostrano poi le percentuali dei lavoratori in un campo di dirigente o quadro, che sono il 18%. Abbiamo un 21% di docenti universitari, oltre il 14% è un ricercatore, sia in campo pubblico che privato. Comunque non sono solo ricercatori, ecco, questo è importante dire. No, assolutamente, perché i ricercatori sono 14%. Poi ci sono i motivi di studio, ma soprattutto c'è la ricerca di una migliore qualità di vita. Esatto, questo è un motivo forte. Quando abbiamo fatto la domanda perché siete partiti, le risposte sono un atto d'accusa verso l'Italia. Ne cito alcune, perché si tratta di un paese allo sfascio, senza prospettive, ingiusto, corrotto e senza senso civico, con cui non ci si può più identificare. E tornerebbero in questa Italia, dall'estero? Le motivazioni per il ritorno in Italia, quello che colpisce è che sono quasi tutte legate alla famiglia. Solo il 18% tornerebbe in Italia. Un 40% è incerto, mentre il 41% lo esclude a priori. I limiti delle statistiche ufficiali, perché emergono nettamente dalle vostre indagini. Emerge che gli italiani all'estero sono veramente molto di più, come già testimonia la domanda che abbiamo fatto sull'iscrizione all'AIRE. Solo poco più del 50% è iscritto all'AIRE dei nostri intervistati. E andandola a incrociare con i primi risultati che abbiamo ottenuto dagli uffici statistici all'estero, emergono dei dati impressionanti. Per esempio in Germania si segna che nel 2005 oltre 28.000 italiani si sono trasferiti in quel paese, mentre negli Stati Uniti ogni anno vengono rilasciati oltre 20.000 visti per studenti e per scambi. In Inghilterra sempre nel 2011 gli italiani che hanno richiesto il codice fiscale sono stati quasi 25.000, quindi queste cifre fanno vedere come ci sia una discrepanza tra i dati in nostro possesso nelle statistiche ufficiali italiane e quelle sui dati di immigrazione negli altri paesi. Quindi a spanne potremmo dire che potremmo raddoppiare tutte le statistiche ufficiali sugli immigrati? A dir poco sì. E vi ricordiamo che il questionario resterà aperto fino a fine febbraio. Per partecipare, www.altraitalie.it. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci riporta in Olanda. Andiamo a indagare uno degli ambienti di lavoro e realizzazione professionale che, a detta di molti espatriati, resta tra i più dinamici e meritocratici d'Europa. Bussola dunque verso Rotterdam. Nome: Silvia. Cognome: Lupini. Età: 37. Città di origine: Ostra, Ancona, Marche. Studi: Architettura, PhD. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2004. Per andare dove? Olanda. Perché? Motivi personali e professionali insieme. Quale lavoro svolgi attualmente? Ho fondato il mio studio di architettura e paesaggismo. Dove? Rotterdam. Tornerai? Torno spesso, quasi pendolare, resterò, chi più dirlo. Do you think you're better off alone? E torniamo con il gruppo Dance Alice DJ in Olanda, addirittura per la seconda volta quest'anno, rotta verso Rotterdam. L'Olanda, la Spagna e il Portogallo sono nell'ordine i paesi europei che negli ultimi anni hanno attratto il maggior numero di architetti italiani. L'Olanda è la mecca dei laureati in architettura e design. L'Olanda attrae per la sua sfacciataggine nell'osare, sperimentare senza avere paura. Così scriveva Claudia Cucchierato nel capitolo del libro Vivo Altrove, all'interno del quale è contenuta anche la tua storia, Silvia. Sperimentare e innovare come antitesi alla conservazione più sterile, è per questo che i nostri giovani architetti fanno rotta verso il paese dei tulipani? Ma in parte sì, l'Olanda ha sempre sperimentato a causa dell'acqua, doveva difendersi dall'acqua, per cui anche gli ingegneri idraulici hanno sempre provato, sperimentato il nuovo. L'Italia del resto invece conserva. È stata aperta al nuovo e alla sperimentazione. Conserva. Questo dovuto in parte alla tradizione, al patrimonio architettonico tradizionale, ma anche sicuramente perché la normativa impedisce la sperimentazione molto spesso. In primo piano la tua storia, Silvia, storia che parte da un piccolo paesino delle Marche, da una famiglia, la tua, dove sei stata la prima a scegliere la strada dell'università. Scegli la facoltà di architettura ad Ascoli Piceno perché? Scelgo architettura un po' inconsapevolmente, di pancia, e Ascoli perché non volevo essere un numero. Allora le grandi facoltà Firenze, Venezia, Roma, gli studenti erano semplicemente numeri. E vitale nel plasmare il tuo futuro è l'esperienza Erasmus, esperienza che rischia di sfumare per pochissimo a causa della disorganizzazione dell'Ateneo, ma qui entra in gioco la tua famiglia, famiglia che ti ha sempre spinto a viaggiare. Chi ti dà la spinta decisiva verso la Francia? Mia madre, perché nel momento in cui dovevamo decidere, eravamo stati selezionati in 5, avevamo quasi tutti rinunciato a causa di esami, corsi già partiti. Lo dissi a mia madre che stavo per rinunciare e lei al telefono mi disse: ecco, lo sapevo. E quella frase è bastata. L'Erasmus è a Rennes, in Bretagna, esperienza dura all'inizio, la prima da sola. Qual è stato, in una parola, il vero valore aggiunto di quell'anno all'estero? Qui faccio una citazione, cito Bjarg Ingels e parlo di evoluzione. Sicuramente è stata un'evoluzione accademica in quel senso, professionale e umana. E dal punto di vista accademico, quali differenze hai trovato tra Francia e Italia? Le due facoltà erano molto simili, però una differenza grande grande era l'apertura a una multidisciplinarità che Ascoli ancora non poteva offrire, era troppo giovane. Mi piace il termine apertura. Nel 2002 ti laurei, a posteriori quale giudizio dai dell'università italiana, sia a livello di singoli con professori che ti hanno anche fortemente motivato, citiamo Pippo Ciorra che è già stato ospite di Giovani Talenti, ma anche a livello più complessivo? A livello personale è stata sicuramente un'esperienza di grande valore. A livello generale e vista da fuori, la facoltà di architettura in Italia prepara molto teoricamente ma molto poco all'esperienza professionale. E siamo sempre alle solite, il vostro giudizio devo dire concorda sempre, molta teoria, poca pratica. Per alcuni mesi lavori in Italia in uno studio di architettura, poi però anche per motivazioni più personali che professionali decidi di staccare la spina e partire. Al di là delle motivazioni personali, avevi però l'impressione che intraprendere una carriera in Italia ti avrebbe potuto portare soddisfazioni sia economiche che professionali oppure no? Sicuramente economiche no, professionali forse sì, in Italia però devi sempre passare attraverso qualcuno. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi ma da qua se ne vanno tutti. Devi sempre passare attraverso qualcuno, dici giustamente Silvia, e l'Olanda ti accoglie con la pioggia, cosa in cui ancora non riesci ad abituarti. Così racconti il tuo arrivo nei Paesi Bassi, volevo fare un'esperienza professionale in un paese che stesse sperimentando più del nostro. Silvia, quale ricerca post laurea ti porta a nord, per la precisione a Delft? Devo dire qui onestamente che la ricerca era il mio alibi, in realtà il mio goal era quello di trovare uno studio professionale e fare un'esperienza vera di lavoro. E l'atterraggio nei Paesi Bassi non è stato semplicissimo all'inizio per la vita sociale, ma almeno molto proficuo dal punto di vista professionale. Cosa scopri? Quale mondo ti si apre e trovi soprattutto la sperimentazione che cercavi? Sì, decisamente trovo quello che cercavo perché lo cercavo, ma ho trovato anche molte cose che invece non mi aspettavo, comprese appunto cose personali, il coraggio di affrontare cose che non sapevo di avere prima. Con gli anni fai passi da gigante, nel 2005 vieni assunta allo studio più importante di Rotterdam, il Westgate. A quali condizioni contrattuali e con che tipo di selezione? Condizioni contrattuali, fui assunta come junior architect per un contratto di un anno di 1900 euro, mi ricordo. Non male. E selezione semplicemente inviando portfolio e curriculum, fui chiamata per un colloquio e poi iniziai subito dopo una settimana, credo. E poi 3 anni dopo lasci col tuo compagno Westgate, lui fonda un proprio studio, tu ti trasferisci a MVRDV, secondo studio di Rotterdam. La mobilità lavorativa, la scelta consapevole di cambiare datore di lavoro in Olanda è vista con diffidenza oppure viene incoraggiata? Assolutamente incoraggiata, fa curriculum, se fai esperienze in diversi studi come OMA, MVRDV, Westgate, per cui non c'è assolutamente problema, forse stava sorgendo ultimamente causa crisi. Un'altra grande straordinaria differenza con la mentalità italiana, nel 2009 nasce tua figlia, scade il tuo contratto come architetto, resti ferma qualche mese, mamma a tempo pieno, poi nell'ottobre 2010 ti metti in proprio e fondi Loop Landscape and Architecture Design. Quanto è facile aprire un proprio studio di architettura, mettersi in proprio e rischiare in Olanda? È un ambiente aperto, competitivo? È molto facile, sono andata alla Camera di Commercio, ho preso il numero e sono partita con il mio computer da casa. È un ambiente molto aperto e molto competitivo, quindi l'importante è crearsi un bel network all'inizio, ma tutti sono aperti alla collaborazione, a lavorare come freelance o a chiamarti a lavorare come freelance. Nel capitolo del libro Vivo Altrove che abbiamo già citato, che ti è dedicato, hai dichiarato: ero venuta in Olanda per un'esperienza professionale, per fare un curriculum da spendere in Italia. Poi mi sono resa conto che quello che c'è qui nel mio campo, anche in tempo di crisi, in Italia me lo sogno, e parlo non solo di contratti, stipendi, condizioni di lavoro, ma anche e soprattutto di progetti importanti a livello internazionale. Cosa fa realmente la differenza, Silvia? Secondo me, non so, sembra assurdo, ma l'età. Quando uno è giovane ha voglia di sperimentare, appunto di provare, ha la grinta e esce fuori con progetti più di pancia che di testa. In Italia c'è poco, si dà pochissima fiducia ai giovani. Il mio ex capo a Westgate ha aperto il suo studio che aveva 27 anni, ma i progetti che faceva allora hanno un fascino molto superiore di quelli, insomma, a cui lavorano ora. Gli articoli di giornali italiani sul tema architettura sembrano bollettini di guerra. Secondo te, al di là della crisi congiunturale, paghiamo una crisi strutturale del nostro modo di fare architettura in Italia? Probabilmente in parte sì. In Italia c'è un po' questa figura del geometra che è stato sempre a metà tra l'ingegnere e l'architetto per tantissimi anni, ancora forse nei piccoli centri è così. E in più c'è un sovrannumero di architetti, per cui c'è la necessità di andare via, di fuggire, di cercare qualcos'altro. Piccola sorpresa, tu insegni sia all'Accademia di Architettura di Amsterdam, sia all'Università di Delft. Italiana, donna, neanche quarantenne. Come giudichi il mondo accademico olandese? È un mondo assolutamente professionale, non c'è la gerarchia che esiste nel mondo accademico italiano, è molto semplice, con un sistema meritocratico puoi entrare, appunto come io semplicemente ho mandato il mio curriculum, e chi lavora invece a tempo pieno all'università imbra il cartellino, entra alle 8, esce alle 5 e mezzo. Come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non vai una proposta concreta da cui ripartire? Adoro l'Italia e secondo me l'Italia è il paese per vivere, però adesso l'Italia si sta un po' lasciando andare al ridicolo e questo mi ferisce molto. Una proposta concreta, intendi alternativa alla rivoluzione? Giovani talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Silvia Lupini, 37enne architetto, lavoro a Rotterdam, in Olanda, uno dei paesi più dinamici sul fronte dell'architettura. Silvia vi approda dopo una laurea ad Ascoli, con un anno di Erasmus a Rennes, un anno fondamentale nel darle la spinta a partire dopo la laurea, sia per motivazioni personali che per fare esperienze lontano dall'Italia. In Olanda Silvia trova occasioni importanti lavorando per i due maggiori studi di architettura di Rotterdam, ma prima di fermarsi per una pausa legata alla maternità, 3 anni fa si rimette in pista fondando un proprio studio di architettura e cominciando a insegnare come docente a contratto in università. Ora fa la pendolare tra Olanda e Italia, incerta su quale paese scegliere per il futuro, anche perché quando vive in Italia trova qualche ragione per tornare in Olanda. Ci raggiunge ora in linea Francesco Pasquale, partner dello studio di architettura Brenso a Bologna e segretario dell'associazione Garbo Giovani Architetti Bologna. Buon pomeriggio. Buongiorno a tutti. Se tutti quelli in gamba se ne vanno, come potranno migliorare le cose? Questa domanda, Francesco, posta da un tuo amico turco che si accingeva a tornare a Istanbul dopo gli studi in Olanda, ha cambiato, diciamo, un po' la tua vita. Tornare per rinnovare il paese, una scommessa possibile col senno di 4 anni dopo? Sì, assolutamente possibile, diversamente non staremmo provando nemmeno ad affrontarla, sicuramente non facile, nella misura in cui certamente una giovane impresa non si trova nelle condizioni migliori come startup in questo paese. Silvia faceva riferimento al tipo di agevolazioni che si possano avere in Olanda nell'aprire una nuova attività, questo tipo di cose non esistono in Italia, quindi diventa difficile competere su un mercato internazionale. Raccontiamo allora la tua storia. Tu studi alla Facoltà di Architettura di Ferrara, poi la laurea con lode a Delft in Olanda. Qual è il sistema migliore, accademicamente parlando? Quale permette il maggiore contatto fra teoria e mondo del lavoro? Probabilmente quello olandese, anche in questo mi trovo d'accordo con Silvia, soprattutto sul fatto della coerenza tra quello che si studia e quello che sarà l'attività professionale successiva. In Italia, tanto per dare un esempio, una volta laureati bisogna sostenere un esame di Stato, che spesso viene fatto dagli stessi professori, quindi è come se la stessa università che ti prepara la laurea poi non garantisse per la tua capacità di inserirti nel mondo del lavoro e quindi tu hai bisogno di un altro esame ancora. Come? Il punto di contatto con la storia di Silvia è l'anno e mezzo di lavoro allo studio di architettura olandese MVRDV. Curioso notare come lasciate lo studio in contemporanea, nell'autunno 2009, ma mentre lei resta in Olanda tu torni in Italia. Un mese dopo, in piena crisi, apri a Bologna Brenso insieme ad altri due colleghi. Qual è il senso della sfida? La sfida è certamente quella, appunto, di investire nella crisi, quella di investire risorse nella maniera in cui si cercherà di essere pronti nel momento in cui le cose dovrebbero ripartire. In questo senso la sfida è anche affrontarla in Italia, vuol dire cercare di farcela con le proprie capacità in base ai propri meriti e non in base a sistemi di conoscenze e relazioni che Silvia ha giustamente citato in precedenza. Se tutti facessero come voi, questo sarebbe un altro paese. Il gruppo fondatore di Brenso è costituito da voi 3 architetti italiani con esperienze di lavoro in Spagna, Olanda e Danimarca. Vi occupate di urbanistica, architettura e design industriale. Quale paese però avete trovato ad aspettarvi a ritorno carichi del vostro bagaglio internazionale? Abbiamo trovato un paese che forse non ci aspettava a sua volta, nella misura in cui forse il tipo di capacità e professionalità che abbiamo sviluppato in queste esperienze all'estero non sono ancora considerate quelle determinanti per essere un progettista affermato in questo paese. E qui dobbiamo cambiare. In Olanda la professione dell'architetto è percepita come necessaria, in Italia invece quasi accessoria, denuncia Giovani Talenti @radio24.it. Quale immenso deficit culturale dobbiamo ancora superare, Francesco? Certamente Sicuramente quello di una educazione all'architettura anche dai gradi scolastici più bassi in primis, e le conseguenze di questo poi si riflettono in tutto il mercato della costruzione, nella misura in cui in Italia sono un piccolo studio di 3 architetti, 3 ingegneri o 3 geometri, si contende lo stesso lavoro e non è la stessa commessa, cosa, mentre non c'è una specializzazione delle diverse capacità, esatto, a seconda del ruolo. Sei docente a contratto alla Facoltà di Architettura di Ferrara, altra interessante analogia con la storia di Silvia, soprattutto sei segretario di Garbo, associazione che riunisce i giovani architetti bolognesi. Allora, quali attività portate avanti per cambiare le cose? Certamente tutte quelle attività che possono in qualche modo promuovere e favorire il lavoro di giovani progettisti, cercare di dare una vetrina degli spazi e visibilità a chi per ragioni anagrafiche, politiche o familiari non ha ancora spazio su importanti riviste di settore, dove invece troviamo purtroppo sempre gli stessi progettisti. Francesco, in bocca al lupo, abbiamo bisogno molto di voi. Grazie, credi. Silvia, domanda di rito: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le varie vie di uscita a un espatrio? Sicuramente di espatriare, ma poi per tornare magari, però per vedere anche l'Italia un po' da fuori, perché l'Italia secondo me è un'isola, per cui non ha molto questo confronto con le popolazioni confinanti. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo: un financial controller per International Crisis Group a Bruxelles, scadenza per i CV 28 febbraio, info su crisisgroup.org. Un ingegnere elettronico con buona conoscenza del tedesco per European XFL ad Amburgo, scadenza per i CV 28 febbraio, info su xfl.eu. E infine l'Istituto Nazionale Francese per la Ricerca Agricola sta reclutando 41 scienziati all'interno di 11 aree di ricerca, scadenza per i CV 28 febbraio, info su international.inra.fr. Buone notizie anche per chi vuole rientrare in Italia: Invisible Studio, studio di comunicazione digitale con sede a Milano e Londra, cerca per la sede meneghina un graphic and web designer, front-end developer e un web developer di rientro, possibilmente dalla Gran Bretagna. Tutte le info a invisiblestudio.it/wearehiring. E siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova emigrazione professionale. Oggi vi portiamo all'interno di una rete mondiale di espatriati che unisce migliaia di emigrati in oltre 300 città del pianeta, tra loro tantissimi italiani. L'associazione si chiama Internations, Tommaso Di Dio è ambassador di Internations per la comunità di Monaco di Baviera. Internations è nata tra il 2007 e il 2008, è una piattaforma con cui si possono creare e mantenere contatti con amici, per esempio, e sviluppare relazioni d'affari in un contesto internazionale. Sono fondamentalmente espatriati che si ritrovano nelle varie città, sì, mondiali. Esattamente, sì, sono esattamente moltissime persone che si trovano tutte nella stessa situazione, perché emigrano per ragioni di lavoro oppure per ragioni private. E in questo modo ci si può conoscere e scambiare idee, scambiare consigli. Tu sei ambassador a Monaco, quanti sono i membri del vostro network? Ne abbiamo circa 23.000 adesso a Monaco, solo a Monaco città. Quanti sono gli italiani? Gli italiani sono circa 2.000. Che tipo di profilo hanno? Ce ne sono di tutte le età, diciamo che l'età media si assesta tra i 33 e i 37. Qual è il tipo di professione? C'è gente che lavora per banche, gente che lavora per startups, ci sono tutti i profili professionali possibili e immaginabili, ci sono managers, è una comunità molto variegata. Hai notato un incremento di italiani che stanno venendo a Monaco o più in generale in Germania, anche sull'onda della crisi? Sì, certo, assolutamente. Mi imbatto continuamente in nuovi membri, appunto, che emigrano dall'Italia per la situazione economico-finanziaria. Cosa cercano e cosa trovano in Germania? In Germania trovano dei posti di lavoro ben retribuiti, dei posti di lavoro che offrono delle sfide professionali, offrono possibilità di carriera in un contesto, chiamiamolo, normale. Ecco. Quando dici normale vuol dire che lasciano qualcosa in Italia che normale non è. Esattamente, cioè che si trovano qui in ambiente aperto, ecco, un mercato del lavoro senza distorsioni, ecco. Di cosa si lamentano dell'Italia? Beh, dell'Italia si lamentano soprattutto del fatto che, appunto, senza avere questa rete, diciamo, di conoscenze personali non si possa fare carriera. Qui conosco ragazzi che non sono neppure 35 anni e ricoprono